Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi vi racconto la storia di un artista grandissimo, di un uomo con un'anima confusa, il classico artista maledetto, così viene definito da chi lo ama, da chi lo segue. Si sa che molti artisti hanno in sé una dannazione, un travaglio interiore, anche una spaccatura, perché da una parte c'è la voglia di fare arte, di comunicare se stessi, di descrivere la bellezza del mondo magari attraverso un dipinto o una scultura come in questo caso, e poi c'è la vita da vivere con le sue difficoltà, con le tentazioni, con i vizi, insomma una realtà parallela anche dolorosa. E il protagonista di oggi è Clemente Amedeo Modigliani. Le persone ritratte da Modigliani sono spogliate della loro anima, sono penetrate nel profondo della natura più intima. Siamo tra l'Ottocento e il Novecento, tra la grande rivoluzione industriale, con la corsa alle conquiste coloniali, con la prima guerra mondiale che sta per esplodere. Siamo a Livorno, dove Eugenia Garcin, di origini marsigliesi, e Flaminio Modigliani, romano, si uniscono in matrimonio. Il padre di Flaminio è un uomo d'affari ebreo residente a Roma e apprende a proprie spese che sotto l'autorità papale non è permesso agli ebrei di possedere terre, quindi bisogna trasferirsi da un'altra parte, al nord Italia, dove gli ebrei sono più accettati. E quindi è un'unione di due famiglie borghesi influenti di tradizione israelitica, e qui nella Toscana di quell'epoca nascono tre figli, Emanuele, Margherita e Umberto, che avranno esistenze separate e diverse. Nell'84, come ultimo, nasce lui, Clemente Amedeo Modigliani. L'infanzia di Amedeo Modigliani è immersa in un contesto familiare molto particolare. Ci sono personalità contrastanti, ci sono disgrazie di vario tipo che si manifestano. Amedeo fa la sua parte, Eugenia, la madre, lo inizia al disegno. Già nel 1898 Modigliani sta frequentando l'atelier del pittore macchiaiolo Guglielmo Micheli, un allievo di Giovanni Fattori, uno che dà modo ai giovani di sperimentare, di cercare il loro stile. E poi arriva il Novecento, ma per Modigliani il Novecento è foriero di una brutta malattia, i primi sintomi della tubercolosi. Deve spostarsi tra Napoli e Roma per ritemprarsi in un clima più favorevole, poi torna al nord, tra Firenze e Venezia, influenzato da grandi artisti come Carpaccio, Bellini, Tiziano. Lui comincia a innamorarsi delle sue muse, perché ormai lui è un pittore. Il corpo femminile sarà per tutta la sua vita il suo modo di esprimersi e la sua ossessione. Grazie allo zio Amedeo Garcin e alla caparbietà dei genitori, dopo essere guarito dalla scarlattina, nel 1906 Modigliani trova i soldi per trasferirsi nella terra dei suoi sogni, cioè a Parigi. Sotto la Torre Eiffel arriva il suo primo colpo d'ala e comincia a nascere l'artista maledetto, quello che i francesi chiamano Modi. La corsa a Parigi è la corsa verso il centro della creatività artistica, ed è per lui anche la corsa verso il pervertimento, perché a Parigi comincia a fare quello che fanno allora molti, che è il percorso verso i paradisi artificiali. Una parte della visione contorta di Modigliani viene proprio dal fatto che lui va via di Zucca sul serio, cioè non è una roba finta, cioè lui è il prodotto visivo di quella mutazione da bar che è l'etilismo, cosa che avrà influenzerà anche il suo carattere. Per lui all'inizio era un ragazzo abbastanza bonaccione, quando va via proprio per di alcol diventa anche aggressivo. Questo l'avete riconosciuto, era il grande critico d'arte Philippe Daverio. Lui sta raccontando la Parigi nella quale arriva Modigliani, attratto dal fascino di una città che sta vivendo la modernità, il secolo nuovo che arriva. Parigi è il centro del mondo artistico e letterario, è il sinonimo di sperimentazione, di audacia, di provocazione. però la sua formazione si scontra con una realtà diversa, è un modo nuovo di fare arte, uno stravolgimento che vede i punti di riferimento nuovi negli impressionisti. In quella Parigi lui incarna due figure, quella del bohemien di buona famiglia, quella del dandy, del raffinato eccentrico che coi suoi atteggiamenti, col suo modo di vestire vuole esprimere una superiorità estetica nei confronti del gusto delle classi medie. La borghesia comincia a essere un avversario e non un interlocutore, soprattutto per gli artisti, e in questo ambiente vanno inquadrati i motivi del suo essere un artista maledetto, di essere prigioniero di un'esistenza bruciata, un'esistenza bruciata che lo accompagnerà per tutta la sua breve vita. Noi abbiamo dei diritti diversi dagli altri, poiché abbiamo dei bisogni diversi che ci mettono al di sopra della loro morale. Io sono ricco e fecondo di germi e ho bisogno dell'opera. Io ho l'orgasmo, ma l'orgasmo che precede la gioia, a cui succederà l'attività vertiginosa dell'intelligenza. Modigliani con queste parole ribadisce la diversità dell'artista e anche quindi chiede una sorta di tolleranza nei confronti di se stesso, insomma l'abbiamo fatto. E in molti sono parole che lui scrive a un amico, Oscar Ghiglia, come se sregolatezza e disordine fossero il destino di un artista che ha qualcosa da dire, un destino segnato. E lui intanto comincia a camminare con le sue gambe, comincia a ricercare il suo stile in grado di unire i valori della tradizione con la necessità di comunicare attraverso le sue immagini. Il falco e il gabbiano. E Amedeo Modigliani, chiamato Modì, fa subito parte di un gruppo a Parigi, un gruppo di giovani ancora sconosciuti che cercano la loro affermazione. Il quartiere, naturalmente Montmartre, che è il quartiere che racchiude lo spirito effervescente del movimento artistico, dei letterari, ma anche delle prostitute, degli intellettuali, degli ubriaconi, degli eccentrici, dei matti. È una combinazione che scriverà la storia culturale di questo continente. Uno di questi protagonisti è Picasso, e lui ha un rapporto di odio e d'amore con Modigliani, che nutre quel senso di aristocratica superiorità che è dettata forse dalla gelosia, dall'invidia del successo delle sue opere, della sua persona, perché lui nell'ambiente artistico è un punto di riferimento. D'altra parte Picasso non ama l'esuberanza di Modigliani, neanche la sua dipendenza dall'alcol. Ecco una conversazione tra i due, tratta dal film I colori dell'anima di Mick Davis. Hai visto cosa porta a dipingere? Eh? Ricchezza, benessere, sicurezza. Solo gli sciocchi muoiono di fame. E Parigi è piena di sciocchi. E dipingi allora, fa soldi, goditela, va con tutte le donne che vuoi, ma bere, con moderazione. Il Vangelo secondo Picasso. Spiegami una cosa, tu mi prendi in giro? Ci provo, qualche volta non ci riesco, qualche volta. Vedi, Modi, è questa la differenza fra te e me, il successo. Ah, certo. Ed è un dialogo interessante, perché gli artisti si sono sempre spaccati in due su questo tema. Ma torniamo a Modigliani, lui si concentra sulla figura umana, che sarà sempre il suo punto focale, coglie il carattere profondo dei suoi personaggi, non ha bisogno di descrivere l'ambiente nel quale vivono, lui vuole capire la vita interiore di una persona, quindi dà vita a opere di grande intensità di colori, forme ben precise, straordinarie, quasi volesse riprendere un po' il modello di Cézanne, il pittore lo più singolare, più enigmatico di tutta la pittura francese post-impressionista. E Modigliani studia, osserva, scopre, elabora quello che succede, è pronto a farsi attrarre da tutta l'espressione che il mondo ha da dare. E in questa fase di rimodellamento di stile sperimenta un altro dei suoi talenti, cioè la scultura. però la pittura lo chiama i pennelli, come i soldati vengono chiamati alle armi nel mezzo di una guerra. Una guerra che in questo caso è fatta di colori, di espressioni, di soggetti. Insomma, Modigliani comincia a essere riconosciuto, voluto, e ritrae gli artisti più grandi come Soutane, Kiesling, Rivera, spazia tra gli intellettuali e i poeti, e le sue tele sono sempre lo specchio nel volto degli altri, perché dipinge quelli che gli somigliano, e è come se dipingesse sempre se stesso. La ricerca di Modigliani è agli antipodi di quelle successive dei dadaisti e dei surrealisti, in aperta rivolta contro tutte le forme di ordine stabilito, intellettuale, morale, religioso, sociale o artistico. Per quanto innovatore, Modigliani non ha mai condiviso questa ribellione. Ecco perché è rimasto un individualista quasi sempre incompreso dai pittori d'avanguardia, accanto ai quali viveva senza far parte dei loro cenacoli. Queste sono parole di un amico e un ammiratore di Modigliani, si chiama Paul Alexander, è un giovane medico che ha la passione per l'arte moderna, è quello che diventa il primo che porterà Modigliani verso il successo. E nel 1914, pressa poco, insomma, inizia per Modigliani l'affinamento della sua tecnica, la nudità diventa la sua cifra stilistica e poi comincia la sua personalizzazione, l'allungamento dei volti, l'esilità dei corpi, i colli, no? Insomma, la sua prima mostra suscita molto scalpore e viene chiusa poco dopo l'apertura dalla pulizia. I colori utilizzati sono cose che prescindono dai canoni stilistici del tempo, ci sono tonalità calde, plasticità che tendono a sottolineare le forme prosperose, insomma, svelano la partecipazione sentimentale, la passione e la passionalità di Modigliani. Non ci sono dubbi che la predilezione per le donne sia come dire, la sua cifra stilistica, ma anche la sua ossessione, l'epicentro della sua vita, volti, sguardi, corpi raffigurati in maniera appassionata, nudi che incarnano un erotismo che per l'epoca era assolutamente azzardato, e Modigliani trova nelle donne l'elemento perfetto per raccontare la purezza, e mischiata però alla immoralità della natura umana. E intanto Modigliani viene travolto da una relazione con una donna canadese, Simone Theroux. È una relazione che poi si concluderà con la nascita di un bambino che lui non riconoscerà mai. Poi, dopo aver concluso un'altra turbolenta relazione con Beatrice Hastings, che è una scrittrice sudafricana, con la quale lui condivide, oltre al letto, anche l'interesse per l'occultismo e soprattutto per l'alcol, conosce Jean Hébuterne, che ritrae almeno 20 volte. E questo è un amore forte, appassionato, che sfocia in una pittura particolare, c'è un senso profondo di considerazione, di devozione, c'è la consapevolezza dell'appartenenza reciproca, l'amore condiviso. Lei è cresciuta in una famiglia cattolica ed entra invece nella comunità di Montparnasse come modella, ha un viso perfetto, i capelli belli, lunghi, le valgono il nome di Noix de Coco, noce di cocco, si iscrive all'Académie Colarossi in cui conosce Modigliani. Lei incarna l'ideale di bellezza femminile che lui sta cercando e che rappresenterà nei suoi dipinti. Jean, Jean. Come conoscete il mio nome? Dovevo conoscerlo. Io sono... Modigliani, lo so chi siete voi. Tutti quanti lo sappiamo. Vieni, voglio vederti con la pioggia. Non avere paura. Io amo la pioggia. Amo quello che dice. Molto interessante. E così la pioggia parla? Sì. E che cosa dice? Che ti serve un cappello. D'accordo, Modi. Adesso io dipingerò te. Vieni a trovarmi e ti faccio il ritratto. Se avrò fortuna un giorno... Cosa? Dipingerò i tuoi occhi. Con la tua reputazione, mi prendi per pazza. Sì? Ebbè, un corteggiamento direi in discesa, eh? Ebbè, l'amore di Modigliani e Jeanne è un mix tra passione, dolore, forse uno degli amori più toccanti della storia dell'arte. Lei lascia tutto quello che ha per seguire questo giovane pittore, va in un sottotetto umido, condivide le gioie, i dolori, le malattie, le crisi derivanti dall'abuso di droghe, di alcol, e lei combatte sempre per lui contro la sua famiglia, che è molto religiosa, è una famiglia che vuole interrompere questa relazione, che vede come maledetta. Non riesce neanche a essere benvoluta dagli amici, che vedono in lei un carattere insignificante, e in realtà questo è solo dovuto dal fatto che è circondata da personalità troppo esuberanti, e lei magari è una che ascolta, però in qualche modo vuole portare via il suo modì da queste influenze. Non ce la fa, naturalmente, e nonostante sia indebolita dalla fame, dal gelo della piccola abitazione dove i due convivono, lei non ce la fa a abbandonarlo. Il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è il grandissimo Amedeo Modigliani, uno dei più straordinari e sensibili artisti di tutti i tempi, influenzato dai grandi nomi dell'arte moderna come Picasso, come Rivera. In realtà lui sviluppa uno stile inconfondibile, contemporaneo, ma in un certo senso antitetico al movimento artistico dei cubisti. Lo chiamano il principe dei vagabondi. Avrà una vita stravolta dalla sua dipendenza, dall'assenzio e dall'hashish, cioè un precursore in questo. Una dipendenza che lo porterà ad avere un'esistenza duplice: di giorno grande, infaticabile pittore, di notte dissoluto bohemien. Ma forse l'ingresso nella sua vita di Jeanne, questa donna che lascia tutto per lui, forse lo porta in qualche modo ad avere una pittura più fluida, un ritmo più dolce, più sinuoso, figure che si allungano. Insomma, i suoi personaggi vengono finalmente immersi in un contesto, in un paesaggio definito, e forse i ritratti perdono un po' del loro spiritualismo, ma acquistano in intensità poi nell'estate del 18, a causa delle sue condizioni di salute che sono sempre precarie. Lui vive sempre, insomma, al limite, e più è affetto dalla tisi. Lui si trasferisce con Jeanne prima a Nizza, dove nasce la loro primogenita, che viene chiamata Jeanne come la madre, e poi dopo un po' di Costa Azzurra si torna a Parigi, anche se è un rischio perché la salute di Modigliani è sempre più precaria. Si va a Montparnasse, è in un atelier che viene dato loro da un polacco, si chiama Leopold Zborowski, è uno scrittore, un poeta, uno dei più importanti mercanti d'arte moderna del XX secolo. Il rapporto con Jeanne è molto complesso, perché Jeanne è il vero amore, ma questo vero amore per Jeanne non è che sia più tranquillo di quello che aveva prima. Anche con Jeanne si menano costantemente. Lui ha un rapporto difficile con il mondo femminile, ma è il rapporto tipico di chi sta nel mondo dei paradisi artificiali, e la sua pittura in realtà è la conseguenza di questi paradisi artificiali. Cioè, il famoso collo lungo modiglianesco è un po' quello deviato da una veduta diversa, cioè quella, non è che lui li dipingesse lunghi, lui li vedeva proprio lunghi. Il suo modo di dipingere, la sua capacità di tratto, la voglia di riprendere una sorta di ieraticità primordiale o talvolta africanoide, quella che si ritrova nelle famose cariatidi. Tutto questo è il bagaglio colto, ma questo bagaglio colto poi si infrange su questo senso autodistruttivo che, attenzione, ricordiamocelo, è anche quello dell'Europa che sta correndo il suicidio. E intanto lui è a Parigi, vive di stenti, però non svende mai la sua arte, si rifiuta di dipingere chi non è, secondo lui, all'altezza dei suoi pennelli. È un uomo che è sempre pronto a litigare per questioni di donne o per le discriminazioni sulla sua arte o sulla sua origine ebrea. Ha un carattere intransigente e collerico, distrugge alcuni dei suoi quadri per rabbia, perché è anche un insoddisfatto, e intanto dietro ci sono la droga e l'alcol, un mix che diventa letale da un lato ma anche importante per la sua produzione artistica. E molti critici hanno associato questi vizi al suo modo di dipingere. E negli anni in cui lui consuma le sue tele, il nettare degli eccentrici a Parigi è l'assenzio, la droga dei boemiene, una droga a basso costo, di facile reperibilità. Modigliani, anche se è minato dalla malattia, non riesce a smettere, non riesce a negarsi i piaceri di queste tentazioni. Fino adesso avete sentito un profano parlare di arte, ma adesso bisogna salire e quindi ci vuole qualcuno che ci capisca tanto, e ho la fortuna di avere il professor Vittorio Sgarbi. Buongiorno professore. Bello, con questa voce calda sento il pomeriggio quando viaggio in macchina, perché vedi il Ruggeri ormai è curioso di tutto, perché ti occupi di ogni cosa, di storie, no, di racconti bizzarri. Ci provo, ma ho bisogno di esperti al mio fianco. Ma hai quel tono, quella specie di tono allungato, no? Di esperti al mio fianco, bello. E quindi di cosa state parlando oggi? Stiamo parlando di Modigliani. Abbiamo raccontato, stiamo raccontando la sua vita. Però volevo capire da te quanto Parigi ha influito, al di là del discorso umano, ma insomma, tecnicamente, com'era quella Parigi dei primi del Novecento? Guarda, ci sono due vite parallele, perché stiamo parlando di Livorno nel 1906, quando Modigliani, che ha vissuto con i suoi amici del gruppo Labronico, sì, che peraltro non è ancora nato ma diventerà tale, decide di partire. Quindi rimangono a terra pittori non meno interessanti come Fattori della sua scuola, che è importante, però rimane confinato in una dimensione toscana, e di racconto della sua vicenda anche psicologica, certo, di strapaese, oppure di mare. Come lui parte, quindi entra in una dimensione in cui si porta dietro una grandissima civiltà, ma non deve raccontare le storie locali. Rimane invece un grande pittore folle che si chiama Mario Puccini. Vale, muore nel 1920 come lui, e quando muore, intorno al simulacro della sua impresa, quindi davanti a lui morto, nasce il gruppo Labronico, mentre in quel momento i livornesi non sentono la stessa attrazione per Modigliani, che pure, certo, era andato a fare. Quando poi Modigliani diventa famoso, si capisce che l'errore era stato di quelli che sono rimasti. Certo. Quindi partire è stato per lui, come era stato importante per Picasso, per Chagall, per Soutine, perché dalla Lituania arriva Soutine, suo amico, grandissimo pittore che un po' gli assomiglia e che lui ritrae, e se fosse rimasto in Lituania non sarebbe diventato il grande pittore. Quindi diciamo che dal punto di vista dello spirito del mondo, come direbbe Hegel, lo spirito del mondo si muove, quindi nel V secolo avanti Cristo è Atene, certo, nel 1500 è a Firenze certo, nel 1900 è a Parigi, certo, e quindi uno deve andare, se tu arrivi a Firenze nel 1490 trovi Leonardo, e trovi, quindi se tu arrivi ad Atene nel 470-80 trovi Fibia, se arrivi a Parigi trovi Picasso e Gertrude Stein. E qui c'è la cosa divertente, perché questi hanno bisogno di mostrare che ricomincia un mondo nuovo, quindi hanno un rapporto con l'arte primitiva. L'arte, certo, primitiva, che sono quelle cose che vedi nel Picasso cubista, nelle moderne opere famose, sono le maschere nere, sono l'opposto dell'arte occidentale. Cioè un'arte, certo, senza tempo, primitiva. Ebbene, il paradosso e la grandezza di Modigliani è che anche lui, quando arriva a Parigi, dipinge come un primitivo. Sì. La parola primitivo ha un significato che nessuno valuta. Primordiale. Che non è solo quello di arte primitiva. No, primitivo è l'arte primordiale, quella appunto africana. Sì. Anche tanto primordiale che anche tra 800 e 900, tu vedi queste maschere, ti sembrano di chissà quanti anni fa, certo, come se l'umanità non avesse avuto movimento. Invece, agli inizi del secolo, proprio quando il nostro va a Parigi, la critica d'arte chiama primitivi, in senso etimologico, sì, quelli che vengono prima di Raffaello. Certo. Non è che ci sono i pre-raffaelliti, sì, se non vale per limite. No, ci sono i primitivi, che sono Cimabue, Giotto, Simone Martini, Beato Angelico, cioè i più grandi pittori prima di Raffaello vengono chiamati primitivi, secondo una definizione che significa devono ancora arrivare i grandi. Certo. Allora lui cosa fa? Guarda i primitivi italiani, che sono Giotto, Simone Martini, quelle figure bellissime sono la risposta a Picasso, che invece vede le maschere africane, o dei primitivi italiani, che sono i grandi toscani, che lui ha lasciato a casa, però dei suoi coetanei, i pittori del 200 e del 300. Certo. Quindi la grandezza di Modigliani è di rifarsi a un'arte originaria che è l'arte del 300 italiano. Certo. Questa è la sua forza. È vero. Quindi lui entra in una grande civiltà parigina, dove ognuno mette mette nei suoi ingredienti per la sua cucina una cosa o l'altra, e lui mette dentro, Chagall mette il sogno, questo mondo di pastori, questo mondo di ebrei, che li fa fare disfili dipinti. Picasso mette le maschere africane per dire non ho più rapporti con l'Occidente, e il nostro, Modigliani, mette la più bella arte del mondo, che è l'arte dei primitivi italiani. Certo, senti, l'ultima domanda che ti faccio è questa. Me l'hai fatta una sola. No, lo so, ma hai fatto una lezione meravigliosa, quindi sono rapito. Ma ora che mi sono ripreso, ti volevo chiedere, per dirla alla francese, visto che stiamo parlando di Francia, cherchez la femme, quanto secondo te questa Jeanne condiziona o si fa condizionare, cioè quanto è importante per uno come Modigliani una donna? Allora, come guarda, Jeanne, torniamo al ragionamento di prima con un parallelo tra le arti, sai, ut sì. Pictura poesis, sì. Se tu pensi che parlavo dei primitivi, che sono Giotto, Cimabue e Simone Martini, i loro coetanei si chiamano Dante e Petrarca. Certo. E cos'è che ispira Dante e Petrarca? Una sola donna, Beatrice Olaura. Beatrice Olaura. Quindi lui ha i primitivi e il disegno, e ha i grandi poeti italiani di ispirazione amorosa. Cioè il Dolce Sinnovo, Dante, Beatrice, Petrarca e Laura sono una poesia che nasce da un'ispirazione della donna, che è una sola, e la sua Laura, e la sua Beatrice, è Jeanne. Ecco allora questa potenza di essere primitivo apparentemente per richiamare la pittura meravigliosa degli italiani delle origini, e primitivo anche nel partire con la poesia, con la pittura di Jeanne, dalla poesia d'amore che è dedicata a una figura femminile ispiratrice. Tutto viene da Laura, tutto viene da, certo, Beatrice. Ma Jeanne era una vittima o un carnefice di Modigliani? Ma nei rapporti poi moderni, chiaro che non si può più essere come ai tempi di Dante, dove c'è la donna beatificata. Lì c'è la tensione, la droga, la vita difficile, la boemma, però l'amore supera ogni contrasto. Quindi il rapporto, diciamo, tra carnefice e vittima, che abbiamo visto da ragazzi nel quartiere di notte, è tipico della modernità. Cioè, certo, lei lo vincolava e lui vincolava lei. Però poi lei muore di dolore, si uccide. Appunto. È come è giusto che sia un amore vero. Esatto. Ma la meraviglia di questo rapporto è che Modigliani, un pittore di figure femminili, qualche maschio, ed è sempre, avrai osservato, sì, rispetto a ogni altro pittore, pittore di una donna, di una persona sola. Sì, sì, sì. Semmai un gruppo, semmai delle storie, sempre il ritratto di un uomo o di una donna, sempre da solo. È, sì, un'ispirazione, sì, come dire, lirica, come tutte le poesie di Petrarca sono indirizzate a Laura, sì, tutti, sì, gli dipinti di Modigliani sono indirizzati a una persona, in un dialogo. È anche l'origine della psicanalisi, cioè tu guardi qualcuno di cui studi l'anima, di cui leggi l'interiorità. Ci sono solo ritratti di persone solitarie, certo, che è proprio una meditazione. È una cifra stilistica amorosa, precisa, sì, sì. È una, sì, stilistica ma anche psicologica, perché certo, vuol dire che lui dialoga con la persona che ha davanti, e in questo caso è un dialogo amoroso nel caso di Jeanne. Però, certo, lei lo ispira come Beatrice ha ispirato Dante. Diciamo che il mondo della grande poesia e della grande pittura del 300 e del 400 in Italia sono il suo punto di riferimento, ma è lui il primo che fa sentire quanto è grande il mondo della pittura italiana, e sul piano psicologico quanto può essere potente l'ispirazione d'amore. Certo. Vittorio, ti ringrazio infinitamente, veramente, cioè, hai dato lustro a questa puntata, grazie, un abbraccio. Ciao, abbracci. Alla fine del 1919, poco prima di morire, forse perché intuisce la fine imminente, Modigliani si ritrae con una tavolozza di colori in mano, con, diciamo, una nobile dignità, la dignità e l'eleganza di chi in qualche modo vuole prendere le distanze, almeno alla fine, con l'uomo bohemien, drogato, donnaiolo che tutti avevano conosciuto. Non erano stati molti a dare credibilità a quel Modi maledetto, però al suo funerale ci sono tutti, c'è Kiesling, c'è Salmon, Picasso, Max Jacob, Simon Thiroux. E che cosa spinge tutti questi artisti a essere presenti, a accompagnare Modigliani nel suo ultimo viaggio? Forse la consapevolezza che lui diventerà una leggenda, benché inquieto, capriccioso, a volte sgradevole, lui diventerà una leggenda. E le biografie non finiscono quel 24 gennaio del 1920, cioè il giorno della sua morte. si aggiunge sempre un giorno in più. È il giorno in cui la disperazione per la perdita di un amore spinge Jean a suicidarsi, lanciandosi dal quinto piano incinta di 8 mesi. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, volare in alto e, come molti artisti, pagando a caro prezzo la loro vicinanza col cielo. Modigliani è stato così, disperato e incline a una serie, insomma, di deviazioni molto pericolose, ma forse proprio per questo artista unico che diventa appunto una leggenda, e ognuno di noi nella vita può dare un colpo d'ala che lo porterà a volare in alto. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito, venite a trovarmi e a trovarci nei miei, nei nostri social. Se volete, sapete dove sono. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno e Grazia Piccinino. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Generation.